La versione di Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori del 24, buon inizio di settimana. Per chi non ci ha sentito anche stamattina con Alessandro Milan attenti a noi due, e comunque 16:30 primi 38 secondi, Oscar Giannino dagli studi di Milano della 24 vi saluta, vi ringrazia e vi annuncio subito l'argomento della puntata. Pregherei in particolare, se c'è qualcuno in ascolto che ha aderito a Garanzia Giovani, il programma con finanziamento europeo di 1,5 miliardi di euro, partito ai tempi del governo Letta e implementato nel successivo governo, rivolto ai giovani 15-29 anni che non lavoravano, non lavorano e non studiavano, per avere tirocini ed essere presi in carico dalle regioni, perché poi l'applicazione in concreto era fatta con convenzioni INPS regioni, di telefonarci all'800 24 0024 per raccontarci la vostra esperienza. Dopo esservi iscritti, siete stati presi in carico, avete svolto il tirocinio, vi hanno pagato la cifra che era prevista nel programma, ne avete tratto giovamento, ci credete? Oppure siete tra coloro che non sono stati presi in carico, oppure hanno avuto tirocinio e non sono stati pagati? Come la vedete? Ecco, non mi rivolgo solo a voi, sono molte centinaia di migliaia, vi ricorderemo un pochino quanti in Italia che hanno creduto nel tempo a Garanzia Giovani. Mi rivolgo anche a coloro nelle regioni dei centri dell'impiego, gli ex centri degli uffici provinciali del lavoro, o che sono distaccati presso i programmi regionali che sono stati attivati per seguire i giovani iscritti a Garanzia Giovani, di telefonarci per dirci l'esperienza delle diverse regioni. In effetti c'è una a macchia di leopardo, non tutte le regioni hanno percentuali di analogo mancato conseguimento degli obiettivi o di fallimento, perché a mio giudizio bisogna parlare di un flop, per così dire, e chiamateci anche voi per favore per dirci la vostra esperienza. Nel frattempo lo spunto da che cosa nasce? Nasce da un articolo che è comparso sul fatto.it di un collega di Agostini, che ha rifatto il punto di Garanzia Giovani. Garanzia Giovani ha iniziato a beccarsi molte critiche man mano che il tempo avanzava, e nell'articolo comparso stamattina il titolo era Garanzia Giovani, pagamenti bloccati per mesi, così siamo costretti a rinunciare. Ve ne leggo solo alcuni brani di questo articolo, perché il punto non è tanto quello di individuare questo o quel particolare fenomeno in Italia, ma il problema è quello di porsi due domande generali. Primo, come mai ha funzionato così poco? Primo. Secondo, che cosa ci dice questa esperienza complessivamente non riuscita, purtroppo, e quindi con tante illusioni giovanili che si sono ulteriormente deluse nelle loro aspettative concrete? Ma che cosa ci dice della parte che ancora manca dell'attuazione del Jobs Act, cioè quella per le politiche attive del lavoro, cioè questa agenzia nazionale che doveva superare la frammentazione e il bassissimo tasso di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro che era realizzata dai vecchi centri provinciali per l'impiego? Ci dice che è una lezione imparata, la quale riflettuto sulla quale parte un modello efficiente ed efficace di politiche attive per il lavoro, o piuttosto ci dice che invece quella parte del Jobs Act in realtà faticherà tantissimo a tradursi in un modello comparabile, per esempio, non è detto che bisogna copiarlo, ma per esempio al modello di accreditamento svolto dall'analoga funzione nel servizio per l'impiego tedesco come riformato dai pacchetti ARTS? Ecco, questa è un pochino le nostre domande oggi di fondo. Leggo qualche brano dell'articolo che c'è sul fatto.it L'articolo comincia così: il ministero del lavoro ammette le difficoltà, attribuendole però alla necessità di controlli, INPS e regioni, a loro volta si rimpallano le responsabilità. Il risultato è che ci sono ragazzi che attendono i soldi da mesi. Le storie: non riesco a pagare l'affitto, mollo, mai ricevuto il conguaglio, ho preferito il servizio civile. Il conguaglio è perché alcune regioni integravano ulteriormente con 100 euro in più i 400 euro che erano previsti mensili per il tirocinio. Aspettavo da un anno, mi hanno detto che il problema è che ho fatto il tirocinio in Emilia e sono veneto, ora lavoro a Hong Kong. In altre parole, ecco i ragazzi delusi da Garanzia Giovani, il programma europeo ideato per favorire l'inserimento lavorativo degli under 30, che però in diverse regioni italiane vedono ormai i pagamenti bloccati da mesi e mesi, imprigionati nel rimpallo di responsabilità tra ente regionale e INPS. Al di là di pochi esempi virtuosi come le Marche, basta fare un giro su Facebook per notare che dall'Emilia alla Puglia, dal Lazio alla Campania, sono fioriti gruppi di denuncia nei confronti dei ritardi nei pagamenti delle indennità. Il Ministero del Lavoro ammette le difficoltà e spiega che sono legati ai controlli da effettuare sui pagamenti, in quanto si tratta di finanziamenti europei, quindi soggetti a una disciplina particolarmente penetrante. Inciso mio, me lo auguro per fortuna, visto quello che abbiamo letto sui giornali italiani, cioè i 4 miliardi di buco realizzati da 7.000 dipendenti pubblici infedeli in 8 mesi del 2015, secondo la Guardia di Finanza. Chiusa parentesi. Il che, aperta parentesi, ci dice che non è vero che la spesa pubblica è all'osso, virgola, e ci dice che all'interno della pubblica amministrazione ci sono patologie ancora estesissime. 7.000 dipendenti pubblici, non stiamo parlando di poche centinaia di furbetti del cartellino che creano buchi per quell'ammontare, sono una patologia evidentemente ancora molto diffusa da paesi in declino, nella chiusa seconda parentesi. Allora, allo studio dei tecnici, e qui concludo la mia citazione e passo agli ospiti, c'è l'ipotesi che le imprese anticipino le indennità ai tirocinanti, ma intanto i problemi restano, questo perché il governo e il ministro Poletti aveva chiuso nell'autunno dell'anno scorso, aveva detto: beh, insomma, questi problemi del mancato pagamento e dei tirocini ancora inadeguatamente avviati c'è, a gennaio del 2016 faremo una riflessione e vedremo di intervenire. Allora, le ultime cifre, quelle ufficiali, davano 944.000 giovani iscritti al programma di Garanzia Giovani, qui c'è una cifra molto rilevante, dei quali presi in carico 595.000. Questo significa che i centri per l'impiego, appunto quelli provinciali, lavorano sulla loro pratica. Di questi 595.000, solo 269.000, cioè il 28,5% complessivo di coloro che hanno creduto in Garanzia Giovani, ha ricevuto un'offerta di lavoro, per lo più un tirocinio, e tra questi 269.000, quelli che lamentano il mancato pagamento sono una percentuale variamente stimata tra il 40 e il 60%. Quindi queste sono le cifre, a mio giudizio, di un flop. Ecco, allora cominciamo da chi, a dire la verità, le sue critiche su Garanzia Giovani le aveva documentate e scritte fin dall'inizio del progetto, del programma, ripeto, 1,5 miliardi di risorse europee, perché se andate a vedere su lavoce.info trovate i suoi successivi articoli nel tempo, a cominciare addirittura dal 2013 e poi di volta in volta aggiornati man mano che i problemi di Garanzia Giovani emergevano, e cioè Francesco Giubileo, grazie di essere con noi. Salve a tutti. Lei, immagino, dopo tutto quello che ha scritto, e di cui la ringrazio, perché ogni volta documentare queste cose serve, perché altrimenti poi i giornalisti sono accusati di avere pregiudizi, immagino non sarà stupito. Minimamente. E la sua risposta alla domanda, che cosa ci dice e non ci dice delle politiche attive del lavoro e della delega fino a questo momento, diciamo così, un po' pigamente esercitata dal Jobs Act? Qual è la sua risposta? Allora, la riforma deve ancora partire, cioè la riforma delle politiche attive del lavoro deve ancora partire, è fortemente incidentata in questo momento per far fronte, diciamo, anche per la prosecuzione della Garanzia Giovani. Letteralmente il ministro Poletti ha dovuto siglare un accordo di fase di transizione con tutte le regioni in attesa della costituenta Agenzia Nazionale per il Lavoro e in qualche modo poi la riorganizzazione complessiva del sistema del lavoro, che andrà costruita a seconda della riforma che prevede come uno degli strumenti più innovativi il contratto di ricollocazione, che si basa molto sulla dote unica del lavoro in Regione Lombardia. Questo è però, diciamo, quello che verrà in futuro. Noi, da praticamente molto prima della garanzia giovani, evidenziavamo che c'erano delle lacune palesi, letteralmente non solo sui centri per l'impiego, ma anche sull'intera tecnostruttura non in grado di gestire un sistema così complesso. Oh, in questa evidente e accertata storicamente incapacità di gestire il fenomeno così complesso, cioè ridotto in sigla giornalistica, i centri per l'impiego servono soprattutto all'impiego di chi ci lavora dentro più che a intermediare domanda e offerta di chi un lavoro lo cerca. Che cosa c'è da imparare forse da altri paesi europei più efficienti in questo, che neanche nella delega del Jobs Act è chiaramente individuato? Uno dei grossissimi lacune, a mio giudizio, della garanzia giovani, come ho già scritto diverse volte, è stato, a mio punto di vista, il mancato e minuzioso controllo di ogni step di tutte le attività che in qualche modo i centri di impiego sono chiamati a realizzare. Cioè, in alcuni contesti tantissime persone prese in carico, ci sono stati anche dei buoni risultati, in altri non si sa perché sono stati anche la metà o quasi nessuno. In alcuni i responsabili del centro di impiego hanno operato bene, in altri no. Perché? Boh, nessuno lo sa. E questa secondo me è la più grande lacuna che c'è. Cioè, manca non solo un monitoraggio, ma nel Regno Unito i Job Center Plus rispondono costantemente a una serie di indicatori e questi indicatori devono rispondere. Se ci sono delle performance molto basse, il district manager spesso e volentieri paga di conseguenza tali risultati negativi, e quindi nel senso è questa che è una delle grandi difficoltà, qualche mancanza della garanzia giovani, che purtroppo io temo che se non si ripercuoterà anche sulla nuova agenzia nazionale, perché se o si definiscono questi indicatori oppure i problemi si ripresenteranno alla stessa volta. Ma la domanda che faccio a Francesco Giubileo prima di passare al nostro secondo ospite, attivare quindi un dibattito a più voci: chi proponeva che la nuova agenzia, pur facendosi carico del personale dei vecchi precedenti centri provinciali eccetera eccetera, dovesse funzionare più che altro come rete pubblica di gestione degli accreditamenti, più che immaginare che da essa potesse avvenire un balzo di qualità ed efficienza nell'intermediazione diretta di domanda e offerta? Sbagliava secondo lei? Era un'impostazione che aveva il difetto di essere troppo aperta al mercato, cioè ai grandi soggetti che vantano già da anni in Italia una percentuale di intermediazione di domanda e offerta del lavoro enormemente superiore a quella della struttura pubblica? Sì, è chiarissima la domanda. Allora, sicuramente è la via che bisogna intraprendere, cioè quella di costituire un asset pubblico che svolga alcuni compiti, ma in alcuni contesti in questo momento è assolutamente incapace di erogare i servizi. In alcuni casi non li ha mai svolti, e ovviamente qui purtroppo devo dire che effettivamente c'è una fortissima polarizzazione e soprattutto nel sud questa mancanza è anche palese. Nel nord invece sono presenti sicuramente dei modelli, diciamo, eccellenti, come quello di Trento, quello di Pordenone, quello della stessa AFOL metropolitana o AFOL Monza Brianza. Ci sono delle realtà che hanno funzionato, che erogano servizi. L'importante, a mio giudizio, è che il centro di impiego eroga, diciamo, le attività funzionali di controllo e soprattutto di verifica di condizionalità, mentre se vuole erogare i servizi per il lavoro dovrà accreditarsi come agenzia, esattamente come avviene nel Regno Unito. I Job Center Plus, se vogliono realizzare i servizi pubblici, devono trasformarsi in agenzia, proprio perché la logica, dal mio punto di vista, la ratio dietro a questa modifica ha anche un suo senso. Così l'attore pubblico è obbligato a rispettare quegli standard di servizi che tutti devono rispettare nei servizi pubblici di impiego. E questo significa naturalmente il riconoscimento a chi è alla ricerca di un voucher che lui è libero di spendere presso tutti i soggetti accreditati, che siano privati o pubblici, perché questo significa il raggiungimento di uno standard di efficienza comparato, corretto? Esatto, più o meno come funziona la dote unica del lavoro presente in Regione Lombardia. Che naturalmente ha il bias agli occhi di tanti, siccome Regione Lombardia conta poi il colore politico, ma in realtà noi dovremmo essere dell'idea che conta poco il colore del gatto, perché ha chiappi topi, come dicevano poi, un tempo. Non metto in dubbio che in alcuni contesti probabilmente la delega al privato non basterà, cioè io mi aspetto che nel sud, in Calabria, non è che funzionerà molto, perché molti operatori privati non ci sono. Lì per esempio bisogna pensare invece alla mobilità occupazionale, quindi sviluppare di più la rete Eures. Ma se lo aspetta questo sviluppo? Questo è l'obiettivo. Io, conoscendo Maurizio Del Conte, il presidente, sono certo che molte anch'io di queste idee sono certo le porterà avanti. Vediamo se ci riuscirà. Vediamo se ci riuscirà, perché in Parlamento è un po' più complicato. Però sì, anch'io devo dire che ho una certa considerazione elevata negli anni di Maurizio Del Conte e di tutto quello che ha fatto prima di accettare questo ruolo all'Agenzia Nazionale, che è un po' di civil servant, se posso dirlo. Lo prende un po' come un servizio militare da questo punto di vista, e io gli auguro molto maggior successo che all'altro mio povero amico Cottarelli. Allora, intanto grazie a Francesco Giubileo, e adesso una pausa di un minuto e poi abbiamo il secondo ospite, Francesco Seghezzi, ricercatore di ADAPT, lo sapete, un punto di riferimento oggettivo per seguire passo dopo passo, giorno dopo giorno, tutti gli sviluppi all'interno della giurisprudenza e della legiferazione per il mercato del lavoro nel nostro paese. Tra un minuto. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:47 primi, una giornata che dal punto di vista di politica economica, sullo sfondo alla risposta secca venuta stamattina dalla Commissione Europea a Renzi, dicendo: ma non capiamo questa polemica italiana sulla quota italiana, 280 milioni rispetto ai 3 miliardi riconosciuti dalla Turchia per sostenere l'immigrazione fuori dal deficit. È già chiaro così, quindi su cosa sta polemizzando il governo italiano? È chiaro dal dicembre, quando ci fu la proposta, il che rende chiaro che l'Italia non sta chiedendo 280 milioni fuori dal deficit, sta chiedendo 3 miliardi aggiuntivi di flessibilità fuori dal deficit, cioè l'equivalente della quota di contributo data alla Turchia. E su questo il Presidente Consiglio ha dato una replica di nuovo dura, dicendo: forse non è chiaro che noi siamo quelli che vogliono guidare l'Europa, non prendere ordini. Quindi, insomma, siamo sempre su toni di un certo calore, per così dire, ecco, senza volerli giudicare. Allora è con noi Francesco Seghezzi, ricercatore di ADAPT. Grazie di essere con noi, perché so anche che non è in Italia. Faccio le stesse domande che ho fatto prima a Francesco Giubileo. Non è una sorpresa neanche per voi, che documentate di mese in mese il flop di Garanzia Giovani, ma a questo punto cosa vi aspettate voi dall'Agenzia Nazionale del Lavoro come lezione imparata, sempre che si sia imparata la lezione del flop rifilato a quasi 1 milione di giovani italiani? Allora, intanto grazie per l'invito. Ci aspettiamo come prima lezione il fatto che la frammentazione regionale dei diversi sistemi di politiche attive, di gestione delle politiche attive, non sta funzionando, perché l'esempio stesso dei rimborsi, dei mancati rimborsi di cui si è tanto discusso, di cui citava appunto l'articolo del Fatto, è un esempio di questo. Ad esempio, sappiamo che in Lombardia il sistema funziona dal punto di vista del ragazzo, perché l'impresa anticipa i soldi dei tirocini, mentre in altre regioni l'impresa non anticipa i soldi dei tirocini, ma l'erogazione dipende dall'INPS, e quindi l'INPS a volte è bloccato per i controlli, a volte è bloccato per il cofinanziamento e l'anticipazione di finanziamenti europei che non arrivano. Quindi la prima lezione è questa, per cui certi criteri standard a livello nazionale possono sicuramente essere utili. Questa è la direzione che in un certo modo si muove anche il sistema tedesco. Allo stesso tempo, però, questi criteri standard a livello nazionale non devono significare una centralizzazione del sistema, perché se no sappiamo sempre che quando si centralizza le spinte al ribasso sono quelle vincenti, tendenzialmente le eccellenze fanno fatica ad emergere. Quindi come criterio generale sicuramente questo, alcuni criteri nazionali più stringenti, ma che si muovano in una logica sussidiaria che lascia spazio alle regioni di muoversi attraverso sistemi di accreditamento funzionanti. Il secondo dato è che è necessario un maggiore coinvolgimento del privato. Del privato, perché, quindi anche i voucher di cui parlavamo prima, ma lei voi ve lo attendete? Noi ce lo attendiamo, sì, sia perché ci fidiamo e stimiamo il lavoro. Cioè, in altre parole, al di là di Del Conte, Poletti... C'è da aspettarselo da Poletti e dall'attuale problematica situazione interna al PD che passi una cosa in cui il pubblico gestisce l'accreditamento, ma anche con i privati più paritario rispetto alla rete Poletti pubblica? Deve, Poletti deve far sì che la garanzia giovani gli venga rifinanziata dall'Unione Europea. Quindi se non si muove una direzione di questo tipo, con questi numeri che nella Commissione Europea dovrà fare, porteranno a nuovi finanziamenti. Quindi affinché il rifinanziamento possa esistere è necessario una revisione in questi termini il più velocemente possibile. E questa è una buona risposta, perché naturalmente, poiché si tratta di soldi e miliardi, speriamo che l'Italia faccia la sua riflessioncina. Poveri ragazzi, però. Sentiamo qualche telefonata. Roberto da Torino, prego Roberto. Buongiorno. Buongiorno. Io solo portare la mia esperienza, io ho fatto un'assunzione, l'ho fatta già precedentemente in passato, ma l'ultima che ho fatto 3 mesi fa, e hanno detto che era garantita, che era pagata, invece il fatto è che la persona non riceve il bonifico della parte della regione, e poi dopo i 3 mesi hanno detto se vuoi continuare a tenerla paghi tutto tu perché la regione non ha più soldi, non paga. Ah, quindi non è che le hanno proposto un'anticipazione, hanno detto per quello che ci riguarda a fine. Esatto, quindi se vuoi continuare a tenere la ragazza la paghi tutto. Fine del programma, però è incredibile a dirsi. Questa sarebbe da approfondire, Roberto, perché è una risposta in quanto tale irricevibile. Però, perché se c'era la presa in carico, non è che dopo 3 mesi la presa in carico può cessare, non è vero, Seghezzi? Certo. Quindi c'è qualcosa che non funziona in questa risposta. Si chiama garanzia giovani in quanto dovrebbe ufficialmente garantire una misura data al ragazzo. Quindi siamo esattamente in una situazione schizofrenica, diciamo così. Allora, il caso di Roberto testimonia che qui siamo anche in presenza di qualche cosa che va al di là delle difficoltà temporanee di pagamento. Siamo proprio in presenza di una negazione del meccanismo in sé di garanzia giovani e del fatto che ci sono risorse europee a disposizione. Sentiamo Salvatore dalla provincia di Taranto. Salvatore, prego. Buonasera. Buonasera. Io invece non sono arrivato proprio, anzi per mia figlia, che l'abbiano chiamata. Nel senso che si è iscritta ma non è stata presa in carico. Niente, e meno male che il ragazzo più grande stava facendo una specie di tirocinio presso la Camera di Commercio di Ferrara dopo che si è laureato, altrimenti anche lui avrebbe fatto, credo, la stessa fine. Allegria. Cioè, mai nemmeno una notizia, niente. Però, del resto i numeri li abbiamo detti prima, su quanti pochi presi in carico su quasi 1 milione di iscritti, quindi siamo quasi nel caso di 1 su 2. Pasquale dalla provincia di Roma, prego. Sì, buonasera. Buonasera. Dottor Giannino, io sono un insegnante di una scuola professionale qui in provincia di Roma e ho fatto parte di un gruppo di lavoro di colleghi docenti per seguire una 50ina di ex alunni già diplomati o diplomandi del 5º anno attraverso Garanzia Giovani proprio per l'inserimento nel mondo del lavoro. È un lavoro immane dal punto di vista burocratico di fogli, moduli, trascrizioni, curricula, eccetera, eccetera, per poi il tutto svanire nel nulla perché si sono perse sia le tracce dell'inserimento nel sistema di garanzia giovani di queste persone. Beh sì, perché poi nessuno di questi è stato né chiamato, cioè non avevamo, dovevamo tra l'altro inventarci anche le imprese con le quali poter eventualmente pianificare un contatto da poter presentare questi ragazzi, ma la cosa era anche molto farraginosa perché bisognava anche coinvolgere l'ufficio del lavoro locale della provincia di Roma qui vicino dove io lavoro, e alla fine insomma questo lavoro qui si è concluso nella primavera dello scorso anno 2015. Noi siamo stati comunque tranquillamente retribuiti come docenti perché era un lavoro extra che veniva. Sì, però l'effetto sui ragazzi zero, capito? No, bene? No, zero, perché praticamente zero. Io avevo personalmente un gruppo di 5 ragazzi, perdoni, ragazzi o ragazze, e una è riuscita alla fine tramite un mio interessamento personale a trovare qualcosa a Londra, per cui le ho preparato anche un po' di documento. Però questo con garanzia giovani non c'entra, insomma, anche qui un insuccesso. Matteo dalla provincia di Rovigo, almeno qualcuno che ci possa dire qualcosa buono, vediamo se è il suo caso. Matteo, prego. No, non è il mio caso, perché salve Giannino, piacere di parlare con lei, perché praticamente io avevo un ragazzo che era arrivato tra l'altro primo nelle selezioni, quindi assolutamente l'eccellenza nella regione Veneto. E lei sta parlando in qualità di imprenditore, datore no? Di lavoro, sono una PMI che cercava un ragazzo da inserire nell'organico. Bene, però allora. Forme qui. Certo, il problema è che quando si è diffusa la notizia che non avrebbero pagato i contributi, il ragazzo ha cominciato ad agitarsi finché non se n'è andato. Ma era vero che non l'avrebbero pagato oppure no? No. Allora, quando sono uscite queste informazioni, tutte le notizie che state dando, tra l'altro una trasmissione delle Iene, che quindi è servita dai giovani e sì. quant'altro, lui è venuto da me e mi fa: guarda che qua si parla di un momento in cui non pagheranno, probabilmente non pagheranno i contributi. Ma lui, se, ma lui se n'è andato prima che si verificasse? Se n'è andato prima Dio. Della fine, perché ha cercato qualcosina di più conveniente, che di più, un pelino più garantito, che fosse probabilmente non vi diamo nulla. Sì, d'accordo. Come vedete, quindi, nelle testimonianze che abbiamo raccolto, random non rappresentano un campione statistico, i numeri, come vedete, non tornano, purtroppo. Io sono molto preoccupato dal falò di speranze deluse, ve lo dico sinceramente, le centinaia di migliaia di giovani italiane. Mi auguro che le opinioni degli addetti ai lavori che abbiamo ascoltato come Seghezza e Giubileo sul fatto che la nuova agenzia del lavoro sia in grado di imparare la brutta lezione che abbiamo portato a casa si traducano in realtà, altrimenti poveri noi. Continuate su Radio 24, appuntamento alle 8:15 domani mattina con Attenti a noi due, con me Alessandro Milan.